Il punto di Stefano Folli. Margaret Thatcher, spesso vituperata in vita, riceve oggi tanti omaggi più o meno convenzionali, talvolta anche da quella sinistra di cui lei fu nemica implacabile. Ne meriterebbe solo uno, almeno dalla sinistra italiana. Il riconoscimento che se i laburisti inglesi sono diventati una forza in grado di governare l'Inghilterra per anni e con successo grazie a Tony Blair e di guidarla in una stagione di prosperità, ciò lo si deve al fatto che prima c'era stata la Thatcher, capace di rinnovare la Gran Bretagna. Anche in Italia la nostra sinistra avrebbe avuto bisogno che arrivasse a un certo punto un leader conservatore, un simil Thatcher, in grado di cambiare nel profondo il paese, di trasformarlo e di permettere dopo a una sinistra rigenerata di fare la propria parte. Ma noi non abbiamo avuto la Thatcher, abbiamo avuto Berlusconi e siamo al punto in cui siamo.